Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa qui in studio a Bruxelles e un caloroso bentornato a Michele in regia. Anzi no, Michele, ti abbiamo già dato il bentornato credo prima delle vacanze pasquali, ma te lo ridiamo, questa sera siamo tutti in studio. Bentornato e grazie del supporto questa sera. In collegamento, come sempre, dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Giro di Boa si occupa del terzo anniversario del terremoto all'Aquila e nei paesi vicini. Il 6 aprile scorso è stato appunto il terzo anniversario, terremoto che causò 309 morti e circa 2.000 feriti. I parenti delle vittime del sisma e migliaia di aquilani, tra cui il sindaco, il presidente della provincia, affiancati anche dal ministro per la coesione territoriale, si sono riuniti in assoluto silenzio in una lunghissima fiaccolata, appunto per ricordare questo terribile evento. Nel terzo anniversario del sisma, il centro storico dell'Aquila è completamente fermo. La ricostruzione del cuore del capoluogo non è ancora partita e le cifre relative all'assistenza della popolazione sono impressionanti. 21.731 persone ancora assistite. Le macerie poi sono quasi tutte lì da 36 mesi, solo il 5% è stato rimosso. Quali sono i sentimenti degli aquilani 3 anni dopo l'evento? Ne parliamo questa sera con la nostra ospite in collegamento. La nostra ospite questa sera è Patrizia Tocci, un'amica di Giro di Boa, in quanto è già stata nostra ospite l'anno scorso per il secondo anniversario del terremoto e anche l'anno precedente per il primo anno del terremoto. Patrizia, ci senti? Sì, buonasera. Buonasera Patrizia. Dunque, dicevo, Patrizia è aquilana, dunque è stata toccata in prima persona dal dramma, insegna materia letterale negli istituti superiori e scrive prose e poesie. Ha pubblicato anche alcuni libri, l'ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2010, dal titolo La città che voleva volare, interamente dedicato alla sua città, L'Aquila. Patrizia, avrei una prima domanda per cominciare e ti vorrei chiedere di spiegare che cosa significa post-it amarcord memo L'Aquila. Questo è il titolo di uno degli ultimi blog che è stato pubblicato sul tuo sito, patriziatocci.it. Ci vuoi dare la spiegazione? Sì, è una piccola iniziativa che ho fatto in questo terzo anniversario del nostro terremoto per cercare di sensibilizzare ancora una volta l'Italia e comunque chi passava all'Aquila in quei giorni. È un evento che ho messo su Facebook, che ho messo sul mio blog e che ho cercato di ovviamente di condividere il più possibile proprio perché forse è possibile parlarne con più persone e comunque comunicare questa nostra situazione. Vedo che è stata già ben descritta. Parlare di una città che ha il cuore morto. Ecco, questo significa molto per noi, cioè nel senso far capire veramente l'emergenza del dramma. Se il cuore di una città non pulsa, è chiaro che tutta la città è ferma. Noi abbiamo avuto in questo momento una ricostruzione che ha interessato soprattutto la periferia. E questa idea dei post-it è nata al centro storico dell'Aquila, in un negozio, in una vetrina. Io ho cominciato a mettere i post-it che mi avevano inviato già degli amici di Facebook, a cui poi si sono aggiunti, adesso sono tanti, sono tantissimi, si sono aggiunti tutti i post-it delle persone che scrivevano appunto a Marcord L'Aquila con i loro nome e cognome, persone da Londra che hanno mandato la loro adesione, amici dalla Francia, amici di tutte le parti d'Italia, e in più gli aquilani e in più le persone che sono venute in questi giorni a visitare L'Aquila. Purtroppo la sensazione delle persone che tornano è una sensazione spiacevole, quanto la mia, è una sensazione di una città immobile, ferma in gran parte, soprattutto nella sua parte più bella, più vitale e anche più estesa, perché il centro storico dell'Aquila è una parte molto grande da un punto di vista di chilometri quadrati di estensione. E tutto questo centro in questo momento è vuoto, è puntellato, è fermo, è in gran parte zona rossa. E aspettiamo ancora con grande ansia un'ordinanza, una normativa che ci permetta di presentare i progetti e di lavorare proprio nel centro storico. Nel centro storico ci sono soltanto due cantieri, soltanto due edifici del centro storico sono stati finanziati e sono cominciati a partire per questi due edifici di cantieri. Per il resto il centro storico in questo momento è una moderna Pompei, con la differenza che noi siamo gli abitanti vivi di questa città e purtroppo invece siamo confinati nelle famose new town, nei famosi insediamenti, nei famosi progetti case che però arrivano fino a addirittura 20 chilometri, ce n'è uno che praticamente è a 20 chilometri dalla città. E quindi questa città che è praticamente scoppiata, forse il termine più giusto è proprio questo, una città che si è che è stata centrifugata, non saprei come spiegare meglio, da tutta una serie di situazioni, scelte, responsabilità che sarebbe molto complicato dipanare, però di fatto la situazione è questa, gli aquilani non vivono all'Aquila, una parte degli aquilani vivono nella periferia che è stata in parte riadattata e recuperata e la gran parte degli aquilani vivono lontano dall'Aquila. Questa è la realtà in questo momento purtroppo e non è una realtà di grande, come potete immaginare, di grande felicità. Io mi ritrovo nella stessa situazione in cui mi ritrovavo lo scorso anno e la mia vita da questo punto di vista non è cambiata per niente. Aspetto con grande ansia che in qualche modo questa provvisorietà si risolva. Patrizia, sono passati 3 anni dal terribile sisma, ma com'è possibile che siamo ancora in questa situazione? E perché la ricostruzione del centro storico è ferma? Ci vorrebbe una trasmissione intera da dedicare a questo argomento. Io provo con molta superficialità a indicarvi una serie di problemi. Innanzitutto il problema è stato politico, perché purtroppo questa città è stata al centro di una lotta di carattere politico, cioè si sono messe le casacche blu e rosse, gialle e verdi, bianche e non so che, senza invece badare al fatto che comunque la ricostruzione dell'Aquila dovesse essere un problema nazionale. Io ho ammirato tantissimo il ministro Barca quando è venuto all'Aquila, perché le prime parole che ha detto l'Aquila un problema nazionale. Ecco. Noi questo non abbiamo sentito finora, cioè nel senso è vero che il problema dell'Aquila è un problema grande, però finora era stato trattato probabilmente con un atteggiamento o paternalistico o comunque con un atteggiamento in cui si pensava di risolvere i problemi dall'oggi al domani. I nostri problemi non si risolvono dall'oggi al domani, noi abbiamo veramente dei problemi infiniti, grandissimi e quindi vanno affrontati con una decisione completamente diversa, con una decisione di carattere urbanistico, con una decisione veramente di un disegno complessivo della città, perché qui si tratta veramente di ricucire una comunità che, come dicevo prima, è completamente spersa, è completamente centrifugata, è una diaspora, la nostra è una, non c'è un altro modo di spiegare questo con un altro termine, insomma, noi abbiamo vissuto nel 2009 e nel 2012 gli aquilani vivono una diaspora, non c'è un altro modo, per carità, senza fate le dovute, come i dovuti paragoni, perché per carità, insomma, non voglio assolutamente offendere la sensibilità di nessuno, però noi ci troviamo a vivere in una città che in questo momento non c'è. Ecco, questo è forse la parola con cui riesco a farvi capire che cosa stiamo vivendo. E questo purtroppo continua, perché invece di pianificare, e questo anche a livello locale, ahimè, devo dire con grande dolore, invece di pianificare veramente una città definitiva e quindi mettere in campo tutto quello che è necessario, gli strumenti normativi, le ordinanze, i piani di ricostruzione, che sono parole, io sono diventata esperta di cose delle quali penso non avrei mai fatto parte della mia vita, insomma, però purtroppo è così, perché riguardano me, riguardano la mia casa e il mio futuro. Se non si approvano i piani di ricostruzione, il governo, il ministro Barca, queste sono le ultime affermazioni, il governo non può erogare i finanziamenti. Il comune è in ritardo con i piani di ricostruzione, anzi addirittura in una prima fase ha avversato i piani di ricostruzione, pensando di poter fare in altro modo. Ora, questo altro modo non è possibile, quindi bisogna tornare ai piani di ricostruzione che il Comune sta approntando e preparando. Però noi scontiamo in questo modo 2 anni e mezzo, 3 anni di ritardo e questa è la realtà. Patrizia, fra pochi mesi all'Aquila si svolgeranno le elezioni amministrative. Che cosa ti aspetti che esca dalle urne o forse meglio ancora, che cosa speri che esca dalle urne? Dunque, è molto difficile perché purtroppo l'Aquila è una specie di laboratorio nazionale, cioè nel senso noi stiamo vedendo anche qui all'Aquila che cosa significa in questo momento la crisi dei partiti, perché ci sono tantissime liste civiche, questo è un segno ben preciso di una situazione di grande insoddisfazione e di grande sofferenza nei confronti di chi finora comunque ha gestito a livello locale, a livello provinciale, a livello nazionale questa situazione. Perché tutti abbiamo di fronte, come diceva giustamente nell'introduzione, la giornalista, la presentatrice inizialmente, tutti abbiamo di fronte il fallimento di un percorso. E allora si sta tentando di recuperare probabilmente un discorso in cui la politica recupera il suo senso vero, che significa il governo della città, la polis, dovrebbe essere questo. Cioè, per noi il nostro obiettivo fondamentale a questo punto è ricostruire l'Aquila. Io non credo che ci interessi sapere se le forze che governeranno in futuro l'Aquila sono o no favorevoli, che ne so, ai PACS, sono favore noi siamo favorevoli alla ricostruzione della città. Quindi io credo che da questo punto di vista le forze dell'Aquila verranno giudicate su questo progetto, su un progetto di ricostruzione, perché ahimè è ancora un progetto e c'è ancora chi oggi, a 3 anni dal terremoto, continua a pensare che si possano fare strutture provvisorie. Noi non ne possiamo più di strutture provvisorie, non so se voi avete avuto eco di questo auditorium di Renzo Piano. Ecco, per esempio, questa cosa a noi non piace, ma non perché non piace l'auditorium, a me non piace, ecco, mi assumo personalmente la responsabilità di quello che sto dicendo, ma non perché non piace l'auditorium di Renzo Piano, ma perché non piace il fatto che l'auditorium di Renzo Piano sia provvisorio. Noi vorremmo che fosse fatto in un altro luogo e che fosse definitivo, perché è tutta la nostra vita che è provvisoria. Noi viviamo in case provvisorie, abbiamo negozi provvisori, abbiamo attività provvisorie, tutto quel poco che abbiamo è tutto provvisorio. Noi in questo momento viviamo una città di ex, cioè se si chiede un indirizzo all'Aquila, tante attività si sono delocalizzate, per cui si rischia di sentire una risposta del tipo: guarda che stava vicino all'ex mattatoio, che sta vicino all'ex questura, che è sulla strada. Ecco, noi non abbiamo più spazio e tempo, noi viviamo un mondo che ha una provvisorietà che fa male all'anima, questo vorrei tentare di far capire. Viviamo una condizione veramente di dolore, ma il dolore non è solo il dolore del terremoto, ma il dolore di una vita sospesa, di una vita che non ha un orizzonte, che non ha un progetto. E quindi da questo punto di vista io ho apprezzato tantissimo la nuova posizione di questo nuovo governo, che la prima cosa che ha fatto ha nominato un ministro ad hoc per la coesione territoriale, il ministro Barca, che si sta interessando delle cose dell'Aquila, e accanto a questo ha messo una commissione con i ragionieri della Corte dei Conti, perché è anche giusto che si indaghi fino all'ultimo centesimo e che si utilizzi l'ultimo euro, ma in maniera giusta, in maniera limpida, in maniera chiara e trasparente, perché anche questo purtroppo non è stato fatto e quindi questo ci porta a una serie di problemi infiniti anche da questo punto. Patrizia, io da studio ti vorrei chiedere se magari puoi condividere con i nostri radioascoltatori un tuo ricordo sull'Aquila, su com'era prima, sul centro storico, un tuo pensiero sull'Aquila, com'era prima di questo terribile evento. Sì, ne ho tantissimi perché, ripeto, è stata la mia città e vi dico soltanto che questi giorni sono fioriti i ciliegi e sono da soli. Le case aquilane spessissimo avevano dei cortili, dei pomari, diciamo così, perché il tempo è un tempo rigido da noi, il tempo meteorologico, quindi nelle case dell'Aquila c'erano spessissimo degli alberi nei cortili, all'interno dei cortili, questa è una nostra tradizione bellissima. Ecco, quegli alberi sono fioriti nel più totale silenzio, nel più totale abbandono, nella più totale solitudine. E mi sembra quasi certe volte che si chiamino da una casa all'altra, che si cerchino, no? Come si cercavano prima gli abitanti. Ecco, quel silenzio del centro storico dell'Aquila io credo che sia una delle emozioni terribili che si possa vivere, perché si può accettare di passare lungo la Via della Fortuna a Pompei, ma non si può accettare di passare lungo la strada di casa mia e trovare quel silenzio senza fine che è in questo momento il centro storico dell'Aquila. Io vorrei vedere i cantieri, vorrei vedere gli operai, vorrei vedere gli ingegneri, vorrei vedere una ricostruzione, invece in questo momento c'è solo il silenzio. Ecco, questa è la mia Aquila, è purtroppo un'Aquila in questo momento fatta di silenzio, una città che spero ci aspetti, perché dopo 3 anni cominciano a cadere gli affreschi, cominciano a screpolarsi i muri, cominciano a cadere le case, comincia a infiltrarsi la pioggia. E qui purtroppo l'escursione termica è un'escursione termica pesantissima, si passa tranquillamente da temperature che vanno da meno 6, meno 7 durante la notte a temperature che vanno al 20-25 durante il giorno. Noi siamo famosi per questo, siamo forse la città più fredda d'Italia che ha la maggiore escursione termica. Ecco, tutto questo sta riducendo in polvere le nostre case, anche se sono puntellate le case stanno cadendo, perché purtroppo c'è questo continuo cattivo tempo e buon tempo che però non fa altro che aumentare i danni e i disastri. Io non so quando andremo finalmente a lavorare, se i tempi sono questi, che cosa potremo trovare. 29 dicembre scorso tu hai scritto una lettera intitolata "Venite a vedere la Pompei numero 2". Chiedevi di tornare all'Aquila alle persone a cui tu hai scritto questa lettera, di andare all'Aquila, così loro avrebbero potuto capire la vostra ostinazione e la vostra fiducia. Tu in questa lettera scrivevi: c'è sempre un sacchetto di speranza nei nostri pensieri, ma vi abbiamo attinto così tante volte in questi 3 anni che ce n'è rimasto ben poca. Ce ne sono ancora di sacchetti? Sì, il sacchetto c'è sempre, il nostro cuore, il nostro desiderio, la nostra nostalgia, ecco, forse la parola più giusta è la nostalgia. Noi vogliamo tornare a viverci in questa città e ci batteremo perché questo accada, ci batteremo nei consigli comunali, ci batteremo a livello nazionale, ci batteremo con tutto quello che sarà possibile fare, però certo questo senso di comunità che via via si va disgregando, che via via si va perdendo, più il tempo passa, più il tempo lotta contro di noi. È ovviamente un rapporto, come dire, inversamente proporzionale: più il tempo passa, più la sfiducia ovviamente diventa importante. Io cerco sempre di mantenere la speranza, anche con il mio lavoro del blog, con il lavoro dei siti, con le piccole e grandi iniziative che riusciamo a fare all'Aquila, perché credo che ce la faremo, io sono convinta di questo. Però quello che mi fa più paura, quello che mi fa più, è che mentre per me un anno della mia vita è qualcosa di fondamentale, per chi viene qui e parla da esterno, un anno, 5 anni o 10 anni non cambia nulla. Nella mia vita questo cambia, come cambierà nella vita di tutti gli aquilani. Ci sono già bambini che nascono e che non conosceranno la città, ci sono già generazioni, in 3 anni no, tutto questo cambia, muta. Io la conservo la speranza, perché fondamentalmente sono una persona ottimista e credo anche, ripeto, credo nel passo giusto di questo governo. Mi sembra che abbia preso finalmente la direzione giusta, cioè come si fa per qualsiasi altro problema di carattere nazionale, al di là dei personalismi, al di là dei colori politici, al di là delle situazioni che determinano no maggioranze. L'Aquila deve essere un problema nazionale. L'Italia ha un grande buco nero al centro della sua penisola geografica che si chiama l'Aquila, e questo non può permetterselo una potenza del G7 o del G8, come vogliamo dire, non può permettersi una cosa del genere, no? E io credo che anche gli aquilani sono stati veramente ricoperti dalla solidarietà dell'Italia e del mondo. Questo io non finirò mai di sottolinearlo e di ringraziarlo. Proprio per questo noi dobbiamo usare questi fondi e questi soldi che ci sono stati dati, e anche i soldi che ci verranno stanziati per la ricostruzione, nel modo migliore. Quindi sicuramente trasparenza, sicuramente controllo, sicuramente fino all'ultimo centesimo, perché insomma è giusto, credo sia anche una forma di giustizia di carattere etico e morale nei confronti di tutti quelli che sono stati sensibili al problema dell'Aquila. Patrizia, siamo purtroppo giunti in chiusura a questa prima parte di Giro di Boa. Noi ancora una volta ti vogliamo ringraziare per essere intervenuta nella nostra trasmissione, un grazie di cuore e soprattutto con l'augurio che la ricostruzione possa cominciare presto e che l'Aquila possa riniziare a vivere presto. Un grosso in bocca al lupo. Come no, io ringrazio voi, ringrazio questa opportunità che mi avete dato di far conoscere il nostro problema anche all'esterno e spero che i vostri auguri, ecco, spero di risentirci fra un anno e di potervi dire sono felice, qualcosa sta andando finalmente per il verso giusto. Questo è l'augurio che faccio a me e a voi e grazie per tutto il vostro lavoro e per il vostro impegno. Grazie mille Patrizia, lo speriamo tanto anche noi di risentirti l'anno prossimo con una nuova speranza e soprattutto con qualche novità importante. Buona serata. Cari radioascoltatori, dopo la pausa musicale siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze Radio Alma 101.9. Vogliamo ora affrontare un tema che può interessare tutti coloro che amano i viaggi e sicuramente tutti noi nella redazione di Giro di Boa siamo grandi amanti dei viaggi, il tema del turismo responsabile. E lo facciamo questa sera con i nostri ospiti che sono Michele, nostro regista. Buonasera di nuovo Michele. Buonasera. E sua moglie Stefania, benvenuta Stefania. Grazie. Quindi due amici di Giro di Boa che hanno da poco concluso un'esperienza di questo tipo in Sud America. Michele e Stefania, innanzitutto vorrei chiedervi per cominciare di raccontarci brevemente la vostra esperienza e che tipo di viaggio avete fatto, quali paesi avete visitato, prima di affrontare, prima poi di entrare nel tema del turismo responsabile. Quindi qual è stato il vostro percorso di viaggio? Abbiamo cominciato dal Perù, dove siamo rimasti un mese a fare un'esperienza di volontariato un po' più classico, e poi abbiamo continuato il viaggio verso il Cile, l'Argentina e siamo risaliti in Brasile, dove abbiamo trascorso un altro mese, cioè in totale siamo stati via 3 mesi. E quindi come definireste quindi il turismo responsabile? Il turismo responsabile è un qualcosa che è stato addirittura standardizzato a livello della World Tourism Organization, che è un'organizzazione per cui tutti vorremmo lavorare, mettere al centro della propria esperienza la popolazione locale, quindi fare ad esempio delle attività che ci portano a meglio conoscere gli usi e i costumi locali, anziché un'attività che ci porta a meglio conoscere, diciamo, la spiaggia del paese che vogliamo visitare. Certo, le due cose non si le due cose non si escludono. Tu se si è Rio si possono benissimo abbinare queste due esperienze. Oppure fare attenzione che il sostegno economico che noi diamo andando a fare turismo in un altro paese poi vada a finire nelle mani della popolazione locale, quindi comprare dei servizi turistici che siano prodotti localmente, diciamo sì, così. Che anziché... non vada nella borsetta di Paris Hilton, in un certo senso. No? Esatto, esatto. Nelle grandi catene di hotel. Quindi, ad esempio, non so se vogliamo prendere un esempio dal nostro viaggio, Stefania, puoi parlare ad esempio di cosa abbiamo trovato in Perù, con il kite, il sepro... Sì, poi in realtà questi viaggi si creano viaggiando, attraverso le persone anche che si incontrano, e questo è il lato diciamo straordinario dell'esperienza, perché abbiamo cominciato il viaggio in Perù fermandoci da due donne straordinarie, una peruviana e un'italiana, al CEPROF, che hanno creato una biblioteca per bambini e a fianco alla biblioteca hanno adibito delle stanze per gli ospiti. In questo modo loro, ospitando il turista, lo rendono più vicino alla loro attività, gliela mostrano, ci sono i bambini che vanno lì a studiare, che vanno lì a fare sport, e allo stesso tempo i soldi che prendono per il vitto e l'alloggio li riutilizzano nelle attività sociali. Poi da lì ci siamo spostati, un'altra esperienza simile abbiamo fatto a Cuzco, dove c'è un'altra associazione che è il Kite, che tra l'altro è stata anche sostenuta dalla Lonely Planet recentemente, quindi c'è un movimento anche delle grandi guide turistiche a sostegno del turismo solidale, cioè è una nuova, diciamo, una nuova frontiera del turismo. Io sì. Avrei una domanda, forse prima non si è sentito, però chiedevo a Michele se c'erano delle vacanze aperte nell'associazione che organizzava perché giustamente, come Annalisa diceva, noi tutti della redazione di Giro di Boa potremmo essere interessati in quanto siamo amanti dei viaggi. Ma volevo sapere, visto che avete viaggiato per 3 mesi, avete visitato diversi paesi, qual è uno o due degli aneddoti che portate con voi, che ricordate con molto, diciamo così, magari con un gran sorriso o magari anche con un po' di malinconia o di tristezza? Voglio ricordare un aneddoto che mi è stato riferito, quindi che non ho vissuto in prima persona, ma che mi è stato riferito. Quando eravamo a Cusco, ci trovavamo spesso la sera a parlare con la signora, questa straordinaria signora che gestisce questa associazione, e con altri. E lei ci raccontava di una volta che aveva ricevuto nella sua istituzione, nel suo istituto, una bambina che aveva 5 anni, che parlava solo quechua, e che aveva fatto nella sua vita solamente la pastorella, era stata praticamente comprata da un pastore per badare agli animali, e lei aveva fatto questa attività a 5.000 metri. Lei quindi un giorno, Vittorio, il nome di questa signora, chiede alla bambina di andare a prendere dell'acqua, e questa bambina comincia a girare attorno alla casa nel giardino. Vittorio le chiede: ma perché? E lei sta cercando l'acqua in un ruscello, cioè perché lei pensa che l'acqua possa essere solo in un ruscello e che magari sta scorrendo lungo il giardino. E dice: ma no, guarda che l'acqua la puoi trovare aprendo il rubinetto. E la meraviglia di quella bambina fu tale che da allora questa bambina chiese di lavare i piatti tutti i giorni, perché si divertiva troppo a vedere l'acqua che usciva dal rubinetto. Però era una specie di miracolo che non si attendeva. Stefania, vuoi aggiungere un altro di aneddoto? Ma io magari vorrei raccontare di un'esperienza che abbiamo fatto noi quando siamo andati in Brasile, per darvi un esempio anche del tipo di attività che vi offrono queste iniziative. Una sera ci hanno insegnato ad usare i bonghi e gli strumenti musicali del posto insieme a degli altri ospiti della casa, con risultati abbastanza scarsi, ma insomma qualcosa avevamo imparato, senza poi dirci che 2 giorni dopo ci avrebbero portato nella scuola di strumenti musicali della favela, dove i ragazzi si esercitano tutti i giorni e dove noi avremmo dovuto fare una dimostrazione e suonare insieme a loro. Ecco, è stata un'esperienza veramente molto bella e coinvolgente, perché all'inizio chiaramente eravamo un po' a disagio, poi Michele si è messo a suonare il bongo, io ballavo con le ragazze, ed è stata una cosa magica, perché si è creata quella sorta di comunicazione non verbale, quella condivisione che è molto difficile da vivere se non si è in contatto diretto con le persone. E questa scuola che loro avevano creato era una scuola che era finanziata da chi voleva sostenere l'attività, ma che era sostanziata in parte anche dai ragazzi stessi della favela, che quindi si sentivano responsabili per l'attività e che per farne parte dovevano anche avere dei buoni risultati, dei buoni risultati a scuola. E quindi era tutta, diciamo che è stata, quello che mi ha colpito è stata questa condivisione, questa apertura, ma anche trovare questa magia in un posto come può essere una favela. Michele, Stefania, io guida studio ho un'ultima domanda. Avete detto che siete stati via quindi 3 mesi, avete parlato dei paesi che avete visitato, quindi Perù, Cile, Argentina, Brasile, turismo responsabile. Come avete preparato questo viaggio? Quindi come vi siete informati, quindi sul turismo responsabile, per questi aspetti specifici che avete elencato? Avete avuto consigli da amici, libri? Ma in realtà è cominciato con il volontariato e con un'associazione di volontariato qui di Bruxelles, e dall'esperienza di volontariato poi per un passaparola siamo passati da un'associazione all'altra. Per dire, quando eravamo a Cuzco abbiamo scoperto, abbiamo conosciuto qualcuno che ci ha consigliato un'associazione in Brasile, che è la Casa Encantada, e da lì abbiamo conosciuto il cugino di un'altra persona. Insomma, diciamo che quello che abbiamo scoperto è che c'è una comunità italiana molto attiva in America Latina per il volontariato. E quindi si può passare da un'associazione all'altra facilmente. Abbiamo, forse Michele vuole dire qualche sito che potete consultare. Sì, ci sono tanti portali, bisogna innanzitutto avere la curiosità e poi dopo qualche portale può aiutare. Ad esempio c'è un portale italiano, www.aitr.org, quindi Associazione Italiana Turismo Responsabile, dove ci sono diversi operatori del settore. Per il volontariato qui in Belgio qui a Bruxelles è attiva una situazione molto interessante, servicevolontaire.org, e poi altri portali in lingua francese, voyageon, quindi sapete come si scrive in francese, -autremont.com, oppure tourisme-responsable.org, e questo può essere il punto di partenza per tutta una serie di ricerche per costruirvi da soli un viaggio di questo tipo. Mi avete molto ispirata, devo dire. Abbiamo ormai consumato il tempo a nostra disposizione, avrei un'ultimissima domanda. Avete già magari un progetto per il prossimo viaggio? Ci stiamo interessando del sud-est asiatico. Ottimo. Sicuramente ispirato gli altri membri della redazione di Giro di Boa e sicuramente tanti dei nostri radioascoltatori, quindi grazie a Michele e Stefania per la vostra partecipazione e contributo alla trasmissione di questa sera, e Alessandra, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla settimana prossima. Risentirci. Grazie a tutti.